adesso Alessandro Scarpati ci racconterà il processo virtuoso delle città spugna. No, vediamo un po' cosa riesco, tanto stacco. Spegniamo la luce. Cioè. Riesci mica a spegnere la luce. Sopra. Ok. Va bene, allora, buongiorno a tutti, buonasera, anzi. Buonasera. Io vorrei presentarvi un'azione ai cambiamenti climatici, un'azione di adattamento ai cambiamenti climatici, perché di cambiamenti climatici se ne parla molto, tantissimo, però se ci pensate poi azioni concrete è veramente difficile trovarne. E voglio farvi un po' la storia di queste città spugna, che è un termine che noi in Italia conosciamo poco, ma che in realtà all'estero è già in voga da anni, e adesso stiamo iniziando anche noi a farò vedere degli esempi. E il tema dei cambiamenti climatici, che ha dei, diciamo, personaggi illustri che negano questa cosa, non negano tanto il fatto dei cambiamenti climatici, perché è abbastanza innegabile e certificato che vi sia un aumento della temperatura e che vi siano più frequenti gli eventi brevi e intensi. Come vedete da questo grafico qua, negli ultimi 10 anni c'è stato veramente un aumento della frequenza, le cosiddette alluvioni lampo. Queste alluvioni lampo ne soffrono principalmente i centri urbani, perché le reti di drenaggio urbane, i tombini, al di là del fatto che devono essere tenuti puliti, io ho messo apposta queste immagini perché vedete bene che quando c'è qualche alluvione solitamente sui social impazza la critica alla pulizia dei tombini, no? Tutti che dicono che non hanno pulito i tombini. E questo è vero fino a un certo punto, perché i tombini devono essere puliti, ma le reti di drenaggio urbano sono dimensionate con tempi di ritorno, cioè statisticamente sono eventi che si possono verificare ogni 5, 10, massimo 20 anni, una volta. Ora, con questa maggior frequenza degli eventi intensi, è facile che si verifichino quasi tutti gli anni. E allora vi faccio vedere due esempi. Il primo l'avrete visto, è l'agosto del 2023, siamo a Genova Principe, e malgrado ci sia questo signore che si ostina a scopare l'acqua, c'è praticamente il piazzale davanti alla stazione Principe, che è in leggera pendenza verso la stazione. Evidentemente la rete dei tombini non è riuscita, così come in altre zone di Genova. E poi c'è l'evento più recente, che è questo, ottobre, quindi 3 mesi fa, ad Albenga, 40 mm in un'ora, la città si è allagata completamente, i tombini non sono in grado di reggere eventi di una tale intensità. Questo video l'ho fatto io, ero lì con i piedi a bagno, ho vissuto, poi io quando mi trovo in questa situazione ovviamente mi metto a filmare, perché non potrei fare altrimenti. E poi abbiamo la piana di Albenga, altro problema enorme, che nell'alluvione di settembre ha avuto danni enormi. E la Piana di Albenga è una distesa impermeabile, è diventata una distesa impermeabile tra serre e teli agricoli, coltivazioni in vaso, e ovviamente i canali, la rete dei canali non è dimensionata per reggere degli eventi così, così intensi. C'è un concetto che purtroppo in Liguria conosciamo poco, che è il concetto dell'invarianza idraulica. Perché dico che conosciamo poco? Perché altre regioni d'Italia hanno già fatto delle leggi, dei regolamenti che vanno in questa direzione. Ovvero, quando costruisci devi fare in modo che le portate di deflusso, cioè quindi le acque raccolte dalle tue superfici impermeabili, non aumentino. Questo è un grafico che cerco di spiegarvi. Il picco è dovuto al fatto che una superficie impermeabile raccoglie le acque, non le smaltisce e le canalizza a valle tutte insieme. Quindi abbiamo un picco di portata. Questa linea verde è la situazione com'era prima della costruzione e diciamo che il principio dell'invarianza idraulica è quello di realizzare delle opere che facciano in modo che la curva sia la stessa prima di costruire, per cui creare delle superfici permeabili che consentano di laminare la piena. Ovviamente vedremo degli esempi. L'Agenda 21, che oggi è diventata Agenda 2030, è un piano di azione a livello mondiale per lo sviluppo sostenibile e aveva al punto 11 città e comunità sostenibili. Credo che in Italia si sia fatto molto poco in questa direzione. C'è un disegno di legge sul contenimento del consumo di suolo che è fermo da anni e credo che rimarrà fermo perché è un disegno di legge che frena l'edilizia, però esistono regolamenti regionali e comunali che seguono la filosofia dell'invarianza idraulica. Quindi se proprio non si può diminuire le costruzioni, almeno facciamole in modo efficace, che possano non creare danni. E allora vi cito questi due esempi importanti. Una è la Regione Lombardia che ha fatto scuola il regolamento sull'invarianza idraulica. Quando vengono costruttori della Lombardia a costruire qua in Liguria chiedono sempre dobbiamo fare il progetto di invarianza idraulica, e noi gli rispondiamo no, perché in Liguria non è obbligatorio. Questa è una cosa veramente assurda, quindi qui lo dico, visto che c'è il consigliere Casella, è una cosa da fare assolutamente, perché la Regione Liguria a questo punto di vista è indietro. E il Comune di Genova ha fatto qualcosa, l'ha fatto a livello comunale. C'è un regolamento comunale che obbliga a seguire i principi dell'invarianza idraulica. Ecco, Città Spugna, il termine l'ha inventato questo architetto urbanista cinese già negli anni 2000, e digitate questo nome su Google, vedrete il suo studio, vedrete i progetti che fa, sono delle cose meravigliose. C'è tutta una serie di interventi da fare a livello urbano, adesso poi ne vedremo qualche esempio, da fare a livello di singola abitazione oppure arredo urbano, lavori pubblici, tutti interventi che seguono la filosofia dell'assorbire le acque meteoriche, del non mandarle direttamente nelle reti di deflusso e magari accumularle per poi riutilizzarle. Ecco, qui ho fatto una ricerca di come funziona negli Stati Uniti, cioè pensate che New York ha fatto il primo piano di, loro lo chiamano Stormwater Planning, pianificazione per questi eventi intensi, l'ha fatto nel 2007 e quasi tutte le città americane ce l'hanno. Se andate in rete li trovate, questi piani sono scaricabili in PDF, sono molto interessanti. Qui ne ho messo uno, c'è ad esempio questo qua, e poi ovviamente gli interventi sono quelli, però è significativo che ormai è da anni che gli Stati Uniti vanno in questa direzione. E c'è addirittura una figura professionale che fa questi piani, che è la figura dello Stormwater Manager, che è una figura a cavallo tra l'urbanista e l'ingegnere idraulico, e che quindi progetta interventi nella città che seguono questa filosofia. In Italia cosa succede? Purtroppo, per ora poco. Siamo indietro, qui c'è l'immagine suggestiva del bosco verticale, ed è proprio la Lombardia, Milano, l'unica città che per ora ha fatto veramente un'azione in questa direzione. C'è questo, si chiama Piano Urbano Integrato Città Metropolitana Spugna, finanziato dai fondi del PNRR con 50 milioni di euro, è la città metropolitana, quindi non parliamo di Milano città, però sono i comuni di cintura, e ci sono 90 progetti di drenaggio urbano, 32 comuni coinvolti. Io vi ho messo una scheda come esempio, il comune di Bollate. Ad esempio, il comune di Bollate ha fatto la parziale depavimentazione dell'accesso al centro sportivo e ha disconnesso queste superfici dalla rete fognaria, per cui quest'acqua che cadeva, che prima dava la rete fognaria, adesso viene assorbita dal terreno. Riqualificazione di 7500 metri quadri attrezzati con trincee drenanti e pozzi infiltranti per alleggerire la fognatura. Chiaro che un intervento così risolve poco, 10 poco, però alla fine se questa filosofia comincia a essere seguita, le cose cambiano. Poi ci sono degli interventi spot. Io ho trovato ad esempio questo a Busto Arsizio, provincia di Varese, il depaving, cioè vengono rimosse le superfici impermeabili come asfalto a cemento. E interessantissimo il fatto che in Olanda c'è una gara tra le città per chi toglie più pavimenti, pavimentazioni, per chi toglie più mattonelle e piastrelle. Alcuni esempi banali, vasche serbatoio di accumulo dell'acqua piovana. Io personalmente l'ho fatto, ho scavato, sono interventi anche abbastanza semplici che consentono da un lato di non far allagare il terreno e dall'altro di accumulare l'acqua. I tetti verdi. Il tetti verdi è una cosa fondamentale. Greta ci ha fatto vedere immagini di cemento. Si vede solo cemento, si vede solo il colore grigio. I tetti verdi consentono di rallentare le acque che vanno nelle fognature, e qui vedete uno schema. A seconda della portanza del tetto si possono anche fare spessori importanti, e addirittura vedete qua nella foto ci sono degli alberi sopra i tetti. La tecnica è un pochino questa: vengono messi questi elementi di drenaggio che consentono di impermeabilizzare nel contempo di raccogliere e accumulare acqua. Ecco, questo è un esempio in Germania, che è un esempio famoso che viene citato spesso. 5780 metri quadri di aree verdi, guardate che volume enorme di acqua che viene accumulato, 439.000 litri d'acqua che vengono rilasciati lentamente nella rete fognaria nell'arco di 24 ore. Ecco, le aiuole drenanti, vedete questa cosa banalissima a pensarci, l'aiuola aperta in modo tale che il marciapiede possa scaricare l'acqua nelle aiuole e da lì viene assorbita. Poi vi sono aiuole che addirittura hanno al di sotto dei serbatoi, dei cassoni che vengono riempiti. Un'aiuola non risolve, ma se la città avesse tutte le aiuole così sarebbe una cosa, una svolta. Questo è il caso di Copenaghen, marciapiedi drenanti, traforati, vedete, e al di sotto dei marciapiedi ci sono dei serbatoi che accumulano acqua. Questi sono impianti sportivi realizzati per creare delle vere e proprie serbatoie di laminazione. Qui è Rotterdam, 1700 metri cubi in impianti che quando non piove vengono utilizzati come piccole arene e durante gli eventi di pioggia vengono riempiti e eliminano il problema appunto di allagamenti in città. così come il caso di Barcellona, che in centro ha 15 vasche nel sottosuolo e riesce a accumulare 477.000 metri cubi di acqua, che può essere riutilizzata per irrigare giardini. Poi questo l'ho voluto mettere al caso estremo della città di Tokyo. Tokyo, per togliersi il problema delle alluvioni, ha realizzato quest'opera mastodontica. Pensate solo che questo serbatoio d'acqua è alto 25 metri, lungo 177 e largo 78, cioè tiene una, mi sembra sia 350.000 metri cubi d'acqua. Tokyo aveva dei grossi problemi di alluvione, ha intercettato tutti i corsi d'acqua con questi silos cilindrici di calcestruzzo e la porta via. Ovviamente i vantaggi non sono solo in termini di mitigazione dal rischio alluvioni, ma conservazione dell'acqua per l'irrigazione, l'abbiamo detto, ma la mitigazione dell'effetto isola di calore urbano. Le nostre città d'estate sono dei forni, e allora il verde ovviamente è in grado di mitigare i picchi di temperatura. Questo grafico lo spiega bene. Vedete che rispetto alle zone totalmente cementificate c'è una differenza di 3 o 4 gradi, che non sono pochi. Questa è la High Line di New York, non so, qualcuno di voi l'avrà sicuramente percorsa. A me è capitato di passeggiare lì sopra nel mese di settembre, di una New York rovente. La High Line era una linea ferroviaria dismessa, e a New York hanno fatto questa meravigliosa passeggiata nel verde. Ora, il tema qui in Liguria e a Genova è che la sopraelevata, sapete che stanno facendo un tunnel sotto il porto, e c'è il dibattito se demolire o no la sopraelevata. Allora, io credo che un'idea del genere su Genova trasformerebbe veramente Genova e la farebbe diventare una cosa meravigliosa. Ecco, chiaramente abbiamo parlato di opere, oggi il termine infrastrutture verdi e blu è abbastanza in voga. Le infrastrutture verdi sono un pochino, qui ho messo un elenco di interventi, di opere. La High Line è un'infrastruttura verde, i corsi d'acqua sono delle infrastrutture blu, e i servizi ecosistemici sono quei servizi che la natura ci offre, la natura offre all'uomo, e l'uomo purtroppo finora non ne ha approfittato più di tanto. Le città sono diventate dei posti difficili in cui vivere, in inverno ed estate. I servizi ecosistemici dimostrano che le città possono diventare degli ambienti più vivibili, basta seguire certi criteri. Ora, io ho messo l'esempio estremo, no, dell'orto urbano, visto che prima ho parlato di tetti verdi, c'è qualcuno che su questi tetti coltiva, e allora lì entra in gioco non solo più la laminazione delle piene, ma anche la possibilità di produrre cibo. Per cui la natura ci offre delle risorse incredibili, dobbiamo solo coglierle. Basta, ho concluso. Grazie.